Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 25. Pesto non condiscende a Giudei, i quali con frode chiedevano che Paolo fosse condotto a Gerusalemme, ma ascolta in Cesarea gli accusatori. E la risposta di Paolo, il quale interrogato, se volesse essere giudicato in Gerusalemme, appella a Cesare. Festo dà notizia della causa di Paolo ad Agrippa, il quale brama di udirlo, e il di seguente per ordine di Festo egli è condotto dinanzi ad Agrippa e a Berenice. Festo adunque è entrato nella provincia, tre giorni dopo andò da Cesarea a Gerusalemme. E comparvero dinanzi a lui i principi dei sacerdoti e i più ragguardevoli giudei contro Paolo, e lo pregavano, chiedendogli grazia contro di lui, che comandasse di farlo condurre in Gerusalemme, tendendogli insidie per ammazzarlo nel viaggio. Ma Festo rispose che Paolo era custodito in Cesarea, e che egli stesso partirebbe in breve. Quegli adunque di voi, che possono farlo, vengano insieme, e se alcun delitto è in quest'uomo, lo accusino. Ed essendo restato tra di loro non più di 8 o 10 giorni andò a Cesarea, e il di seguente sedendo a tribunale, ordinò che fosse condotto Paolo. Ed essendo egli stato condotto, lo circondarono che giudei, che eran venuti da Gerusalemme, portando molte e gravi accuse contro di Paolo, le quali non potevano provare. Difendendosi Paolo con dire: non ho niente peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, rispose a Paolo, e disse: vuoi tu venire a Gerusalemme, e quivi esser sopra queste cose giudicato dinanzi a me? Ma Paolo disse: sto dinanzi al tribunale di Cesare, ivi fa di mestieri, ch'io sia giudicato. A giudei non ho fatto torto, come tu sai benissimo. Impero che sebo fatto torto, o se ho fatta cosa degna di morte, non ricuso di morire, che se non è nulla di tutto quello, onde questi mi accusano, nessuno può ad essi donarmi. Appello a Cesare. Allora Festo, avendone discorso in consiglio, rispose: hai appellato a Cesare? A Cesare andrai. E passati alcuni giorni, il re Agrippa e Berenice si portarono a Cesarea per salutare Festo. Ed essendovisi trattenuti per vari giorni, Festo parlò di Paolo al re, dicendo: avvi un certo uomo lasciato in catene da Felice, per cagion del quale, essendo io a Gerusalemme, vennero a trovarmi i principi dei sacerdoti e i signori dei giudei, chiedendo ci fosse condannato. A quali io risposi: non esser costume dei romani di condannare alcun uomo prima che l'accusato abbia presenti gli accusatori e gli sia dato luogo di difesa per purgarsi dalle accuse. Egli adunque, essendo immediatamente concorsi qua il divenniente, sedendo a tribunale ordinai che fosse condotto quell'uomo, di cui presentatisi gli accusatori non gli opponevano delitto alcuno di quelli che io sospettava, ma aveano alcune dispute contro di lui intorno alla loro superstizione e intorno a un certo Gesù morto, che Paolo diceva esser vivo. E stando io irresoluto sopra tal questione, io diceva: se avesse voluto andare a Gerusalemme, ed ivi esser giudicato sopra queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello, a fine di essere riservato al giudizio di Augusto, ordinai che fosse custodito sino a tanto che io lo mandi a Cesare. E Agrippa disse a Festo: ancora io bramerei di sentire quest'uomo. E quegli, domane, disse, lo sentirai. E il di seguente, essendo andati Agrippa e Berenice con molta magnificenza, ed entrati nell'uditorio co tribuni e con le persone principali della città, fu per ordine di Festo condotto Paolo. E Festo disse: Agrippa re, e voi tutti che siete qui insieme con noi, voi vedete quest'uomo, contro del quale tutta la moltitudine dei giudei ha fatto ricorso a me in Gerusalemme, gridando che non conviene che i viva più. Io però ho riconosciuto che non ha fatto nulla che meriti morte. Ma avendo egli stesso appellato ad Augusto, ho determinato di mandarglielo, intorno ai quali nulla ho di certo da scrivere al Signore. Per la qual cosa l'ho fatto venire dinanzi a voi, e principalmente dinanzi a te, o re Agrippa, affinché disaminatolo io abbia qualche cosa da scrivere. Impero che contro ogni ragione mi sembra mandare un uomo legato, senza accennare i motivi. Note 25,3, tendendogli insidie per ammazzarlo nel viaggio. La Giudea era in che tempi piena di assassini, di modo che non sarebbe stato difficile agli ebrei di condurre a fine le loro trame. Festo probabilmente ne fu informato, e non diede orecchi alla domanda dei giudei. 25,4, rispose che Paolo era custodito in Cesarea. Vale a dire, che stava bene dove era, né era necessario di farlo venire, perché anche colà potevano andare gli accusatori, e farsi il giudizio. 25,8. Non ho niente peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Non ho peccato contro la legge, avendola sempre osservata, non contro del Tempio, in cui non sono entrato, se non dopo essermi purificato. E non vi ho introdotto, come si dicono, alcuno straniero, non contro Cesare, perché non ho fatto, né macchinato sedizione di sorta alcuna. 25,9. Ma Festo volendo, disse, vuoi tu venire a Gerusalemme? E Festo non aveva più la costanza, della quale aveva dato saggio in Gerusalemme. Comincia a propendere per i giudei. Ma per non parere ingiusto contro un cittadino romano, non comanda, ma in certo modo lo prega a contentarsi di cambiare il luogo del giudizio senza mutare la giurisdizione, poiché dice, e quivi essere sopra queste cose giudicato dinanzi a me. Ma Paolo aveva motivo di temere che Festo dopo il primo passo non facesse il secondo di darlo nelle mani dei giudei. 25,10. Ma Paolo disse, sto dinanzi al tribunale di Cesare, e ci Paolo temeva Gerusalemme, il viaggio, e lo stesso giudice, il quale vedeva già parziale per suoi nemici. Quindi risolutamente dice, che ha determinato di stare al tribunale di Cesare, venendo a dirgli, che il mandarlo a Gerusalemme, era quasi lo stesso, che sottrarlo alla giurisdizione di Cesare per metterlo nelle mani dei giudei. I quali non avrebbero lasciato luogo a Festo di terminare il suo giudizio, perché lo avrebbero violentemente privato di vita. 25,11. Se non è nulla di tutto quello onde questi mi accusano, nessuno può ad essi donarmi. Farli padroni della mia vita, con le quali parole tacitamente riconviene il preside. Appello a Cesare. Questo appello era giusto, e secondo le leggi romane. Perché Festo dava segno di essere disposto ad abbandonare un cittadino romano, conosciuto da lui innocente, in potere degli ebrei. I padri riflettono, che non il desiderio della vita, ma l'amore, e il bene della Chiesa lo ispirò ad appellare a Roma, dove tanto egli doveva operare per la gloria di Cristo, come il Signore gli aveva manifestato in quella visione, capitolo 18. 2:25,12. Avendone discorso in consiglio, e con i suoi assessori. 25,13. Il re Agrippa, e Berenice e C. Agrippa II, figliuolo di Agrippa il re di Giuda. Egli fu da principio re di Calcide, e poi della Traconitide, della Gaulonitide, e di altri paesi. Berenice era sorella di Agrippa, la quale ebbe per primo marito Erode suo zio, e di poi Polemone re della Cilicia, col quale ben presto fece divorzio. Ella era screditatissima in materia di costumi. 25,18. Non gli opponevano delitto alcuno di quelli che io sospettava. Festo considerato il calore, col quale gli ebrei avevano parlato a lui contro Paolo, considerato, che Felice lo aveva lasciato in prigione, dove stava già da più di 2 anni. Aveva ragione di credere, che non sarebbero mancati agli accusatori dei gravi, e capitali delitti da opporgli, e dei quali provarlo reo. 25,19. Dispute contro di lui intorno alla loro superstizione. Questo gentile parla empiamente della sola vera religione. Ma così parlavano i romani della religione degli ebrei, la quale non con altro nome che di superstizione giudaica viene rammemorata dagli scrittori latini. Ma quello che è più da ammirare, si è, che Festo parli in tal guisa in faccia a Agrippa e Berenice, che pur erano giudei. 25,20. E stando io irresoluto e si poteva rispondere a questo giudice, che non avendo, come egli stesso confessa, gli accusatori provato alcun delitto commesso da Paolo, l'obbligo suo era di assolverlo a tenor delle leggi. Ma egli cerca di nascondere la sua colpa, e dice, che non essendo egli niente al fatto delle dispute vertenti tra Paolo e i giudei in materia di religione, era stato incerto di quello che avesse a fare. E vuol dire, se dovesse metterlo nelle mani dei giudei, i quali sopra tali cose lo giudicassero. 25,23. Entrati nell'uditorio. Appresso i giureconsulti romani, uditorio significa il luogo dove seggono i giudici. 25,26. Da scrivere al Signore. A Nerone. Il titolo di Signore cominciò a darsi agli imperatori di Roma da questi tempi in poi, avendolo accettato Nerone, benché lo avessero rifiutato non solamente Augusto, ma anche Tiberio con pubblici editti. Per la qual cosa lo ho fatto venire dinanzi a voi, e principalmente dinanzi a te, o re Agrippa. Vale a dire, che Agrippa, come informato delle leggi, e delle controversie vertenti tra giudei avrebbe potuto contribuire a metterlo al fatto delle ragioni che potevano avere i giudei di chieder con tanta ostinazione la morte di Paolo, sicché mandandolo egli a Cesare, potesse ancora rendergli conto dei motivi per quali era stato imprigionato.